benvenuti, bentornati e bentornate alla Fuga del Gatto, 18:33, sì, 18:33, Radio Wombat, scusate, ma qua troppe trasmissioni si confondono, non mi ricordo più dove sono e cosa sto facendo, non sto facendo Slick Chick, sto facendo la Fuga del Gatto, domenica 13 ottobre appunto, nel frattempo sono le 18:34, ho già perso un minuto a dire cose inesatte. Mi confondo anche perché sono da sola e quindi sono abituata che in solitaria faccio Slick Chick, e invece no, sono da sola pure qui sulla Fuga del Gatto. La mia compara non è potuta essere qua e quindi insomma sono qui da sola, ma vi terrò compagnia lo stesso e insomma non me ne vogliate, da sola farò il possibile, ecco. Puntata di oggi dedicata a un tema abbastanza di nicchia. D'altra parte noi siamo un po' così, l'abbiamo detto tante volte, siamo un po' spocchiose, ci piacciono le cose che non piacciono alla massa e quindi abbiamo preparato, l'ho preparata io perché è più che altro a me che mi intrippano queste cose, vabbè, tanto lo sapete se ci state seguendo da un po', insomma ho preparato una puntata dedicata all'Ars Subtilior. Lo ridico perché è veramente difficile non impappinarsi mentre lo si pronuncia. Ars Subtilior è un, lo vedremo, insomma, un tipo di musica sostanzialmente profana di fine 300, la cui caratteristica fondamentale è almeno quella che è arrivata fino a noi, insomma, che spicca un po' di più agli occhi, è la sua eccezionale complessità ritmica e notazionale. Si può apprezzare fino a un certo punto soltanto ascoltandola, anche se insomma anche soltanto all'ascolto ci si rende conto di moltissime cose e della complessità che insomma che nasconde questa musica, ma ancora di più lo vedremo, ci si rende conto di tutto la vastità di questo mondo di pazzi guardando gli spartiti, perché gli spartiti, manoscritti ovviamente con una notazione diversa da quella a cui siamo abituati, diversa da quella moderna occidentale, stiamo parlando insomma di fine del 300, ecco, però lo vedremo, erano scritti in una maniera particolare, cioè anche il modo di scrivere questa musica, il come le note venivano messe nel foglio, con che forma, c'erano varie disegni, insomma già solo quello dava un'idea della complessità del tutto. Abbiamo già parlato un po' in realtà dell'Ars Subtilior durante, se vi ricordate, durante la puntata dedicata a Guillaume de Machaut. Non so, forse non vi ricorderete niente, però anche lì un pochino si buttava qualche introduzione a questo tipo di musica, perché Guillaume de Machaut appunto un po' faceva parte di questo tipo di compositori che amavano o perlomeno riprendevano alcuni stilemi dell'Ars Subtilior, insomma, anche se Guillaume de Machaut non è passato alla storia come un compositore di Ars Subtilior, ma insomma ci si rifaceva un po' in qualche maniera e quindi ci ha dato un po' la scusa per parlarne. Ora invece ne parliamo un po' più a lungo e un po' più approfonditamente. Allora, si ritiene si è ritenuto perlomeno per molto tempo che l'Ars Subtilior fosse nata ad Avignone e si fosse sviluppata soprattutto ad Avignone, nel sud della Francia ovviamente. In realtà poi recenti studi la riconducono di più all'ambiente parigino, in ogni caso si sta parlando della Francia e più che altro questo movimento, perché di fatto di movimento si parla, è visto almeno adesso in contrapposizione con l'Ars Nova italiana che fiorì dal 1310 al 1370, quindi il periodo passa, è quello insomma. e sia per l'ars nova sia per l'ars subtilior. Ma quello che salta però in realtà agli occhi o agli orecchi, ascoltando con boh, un minimo di criterio, direi, la musica europea e non solo europea, tardo medievale, è quanto invece le varie scuole si contaminassero continuamente a vicenda. Questa cosa l'abbiamo detta più volte. Quello che poi sui libri di storia della musica è molto schematico, c'era questo movimento che era contrapposto a quest'altro movimento che si scontrava con questa scuola. In realtà, soprattutto al tempo le cose si fondevano moltissimo e si influenzavano moltissimo a vicenda. Di fatto quello che era un fermento estremamente fruttuoso dove ognuno aggiungeva un pezzetto. Tant'è che se andate ad ascoltare dei pezzi dei brani di Ars Nova e dei brani di Ars Subtilior, insomma, non è che a un ascolto così veloce, vi sembrerà che ci sia questa estrema differenza o che insomma ci siano degli stili che proprio facciano a botte, anche se ovviamente le differenze ci sono e ovviamente adesso non cioè, diciamo ce ne possiamo accorgere fino a un certo punto, ci saltano agli occhi fino a un certo punto, ma è pur vero che le cose si influenzavano molto di più di quello che poi andiamo a dire oggi. Le varie suddivisioni, quindi insomma, Ars Nova, Ars Subtilior, Ars Antica, peraltro, sono insomma, direi forse un po' un vezzo nostro, utile sicuramente, ma quanto più per, come dire, barcamenarsi un po' in quella vastità musicale del mondo antico, che peraltro è stata lasciata un po' da parte per tanti anni, e quindi a un certo punto ci siamo dovuti ritrovare tutto questo bagaglio da ristudiare, ci è servito un po' di inscatolare, di sezionarlo e di dare un nome alle cose. Ma non, queste scatole, diciamo che non vanno intese come rigide, tutt'altro. Iniziamo quindi con un primo ascolto e da un compositore che si chiama Baude Cordier. Questo che ci andiamo a ascoltare è un canone circolare. Il titolo del brano è Tout par compas suis composé. Qui poi lo vedremo, ne parleremo un pochino. Sì, questa composizione è arrivata a noi grazie al codice di Chantilly, uno dei codici più importanti della musica antica, dove dentro si sono trovati poi fondamentalmente il grosso delle composizioni di Ars Subtilior. E di Baude Cordier, poi insomma vedremo meglio come il codice di Chantilly cos'è, ma diciamo che dentro questo codice ci sono composizioni di vari autori, di cui due di appunto questo compositore, Baude Cordier. Queste due composizioni, di queste due, una è la canzone d'amore, Belle Bonne Sage. Mamma mia, la stucchevolezza, bella, buona e saggia, ovvero. La cui partitura, però, attenzione, è a forma di cuore e colorata. Se vi incuriosisce, andate a vedere su YouTube, si trova Belle Bonne Sage di Baude Cordier. E è molto, molto, curioso, ecco, guardare lo spartito di questa, il manoscritto di questa composizione, perché appunto ha questa, cioè le note sono scritte tutte intorno a questo disegno di cuore e colorata, cioè le note erano colorate, cosa strana e bizzarra per l'epoca, beh, anche per adesso veramente. E i colori non erano casuali, poi lo vedremo, alcuni colori indicavano precisamente un lato tecnico, cioè qualcosa che l'esecutore doveva sapere, e insomma anche come l'andamento della melodia era tracciata e andava seguito lungo questo labirinto disegnato, il che rendeva chiaramente molto difficile l'esecuzione. L'altra invece, l'altro brano, l'altra canzone contenuta dentro il codice di Chantilly di Beaucordier era questo canone, Tout par compas suis composé, scritto in modo circolare, quindi un canone che effettivamente è esattamente una melodia circolare che si insegue in qualche modo, invece di essere scritta in maniera lineare andando al massimo a capo. Quando serviva, veniva invece scritta, viene qui invece scritta con un cerchio, insomma, in modo che anche visivamente, immediatamente dia la sensazione appunto del canone. Beh, io ascolterei intanto subito questo brano e poi continuiamo nell'esplorazione di questa strana e bizzarra musica. Non so se si nota il canone, direi che si nota un bel po'. Ovviamente mi sono dimenticata di dire, lo davo un po' sc per scontato, non si tratta di monodia, quindi la complessità, oltre a tutto quello che abbiamo detto finora, era che le voci che si inseguono sono molteplici, sono tante, e si intersecano l'una con l'altra in maniere ovviamente perfettamente costruite. L'ars subtilior, insomma, le sue difficoltà, che un po', insomma, abbiamo iniziato ad accennare, sono in primis notazionali, cosa che oggettivamente è molto, rende il lavoro molto complicato per chi poi le va a interpretare. Ma in realtà all'ascolto, non so come vi è sembrato, ma non è che si nota tutta questa elaborazione, cioè poi in realtà, appunto, quando prima citavo Machaut, beh, non è che ci sia tutta questa differenza a un primo ascolto, oppure anche rispetto a un Okegem che viene dopo. Insomma, più o meno al primo ascolto le cose sono abbastanza simili. E qui però si tratta di una sperimentazione, in primis grafica, che è un po', insomma, volendo, c'è chi ci ha visto del compiacimento, dell'autocompiacimento e del, boh, così, un far vedere quanto siamo fighi, ma sicuramente di fondo c'è anche una spinta alla sperimentazione, al giocare, cosa che assomiglia un po', volendo, a qualcuno l'ha paragonata allo sperimentalismo novecentesco, e in effetti non è che è così. Secondo me un paragone così, così peregrino. Allora, quindi probabilmente questa musica, insomma, non è che, cioè, non appariva così strana all'ascolto, appariva strana a chi la doveva interpretare e a chi un po' se ne intendeva di musica, ecco. E quindi, fra l'altro, questa cosa qua, diciamo che queste canzoni poi sono state interpretate negli anni successivi come molto cerebrali, come forse un po' eccessivamente, appunto, come dicevo prima, autocompiacenti, però in realtà, insomma, la cosa che spicca di più è appunto questo sperimentalismo e anche un certo grado di voglia di stupire chi abbiamo di fronte. Poi probabilmente chi abbiamo di fronte non sarà in grado veramente di coglierlo, a meno che, e questa è un'altra interpretazione, poi in realtà a noi quello che ci è arrivato è soltanto il codice scritto, quindi soltanto le note messe lì, ma poi probabilmente quando lo si andava a eseguire in pubblico c'era qualcosa in più che lo rendeva ancora più stupefacente, ovvero gli strumenti che dovevano essere, per esempio, particolarmente gravi in certi punti, delle percussioni diverse e più varie, insomma, c'è tutta una serie di cose che non facevano parte strettamente della notazione e che quindi non ci sono arrivate, ma che magari facevano probabilmente parte di tutta la presentazione del brano e che facevano sì che effettivamente l'Ars Subtilior sia arrivata a noi come qualcosa di, cioè, è passata un po' di generazione in generazione come qualcosa di difficilissimo, complesso, stupefacente. Appunto, a sentirlo non sembrerebbe, ma probabilmente invece al tempo era esattamente questo. Tant'è che, insomma, veniva presentato ai principi e ai nobili, e non è che i nobili e i principi dicevano: ah, vabbè, la stessa cosa di prima, come più o meno come il resto che ho sentito finora. No, rimanevano molto stupiti e molto intrigati legati da questo tipo di musica, e quindi probabilmente c'è un qualcosa in più che a noi non è arrivato. C'era, appunto, prima si parlava di autocompiacimento e sicuramente c'era un certo grado di, come dire, di sfrontatezza e anche di competizione. D'altra parte erano, per contestualizzare minimamente, erano gli anni dell'antipapa, quando la Francia e l'Italia si contendevano il potere divino e gareggiavano a chi ne aveva più diritto. E quindi, insomma, questa gara, come dire, si ovviamente ripercuoteva anche nella cultura e nella musica. È una musica questa che è spesso stata interpretata come molto politica, tecnicissima, al limite dalla freddezza inespressiva. Eppure, io non mi trovo moltissimo d'accordo, ma insomma, eppure queste, tant'è che queste difficilissime composizioni hanno stupito e influenzato, come dicevamo prima, l'arte a venire per secoli. E appunto se ne ritrovano tracce nella musica dei secoli a venire. E così non sarebbe stato se non ne fosse stata toccata anche l'anima. Io su questo, insomma, son d'accordo con chi ti dice questa cosa, e non tanto con i critici che appunto la relegano un pochino nell'angolino delle cose difficili e complicate. Veniamo a un altro ascolto. E in particolare, questa volta arriviamo a un altro compositore, Johannes Ciconia. Io non ho idea di come si legge Ciconia, Ciconia, boh, perdonatemi, ma proprio non ho idea, non so neanche dove trovarlo, onestamente. Le Rai au Soleil, nato questo compositore a Liegi nel 1370, a Padova. È morto indicativamente tra il 10 giugno e il 12 luglio del 1412. Ascoltiamoci intanto questa prima canzone e poi ne ascolteremo un'altra, sempre sua. Thank you. Ma intensa, direi, Le Rai o Soleil. Dicevamo, nato a Padova nel a Liegi nel 1370 e morto invece a Padova nel 1412. Un compositore fiammingo, dunque, e teorico musicale del tardo Medioevo. Ovviamente, come molti musicisti e compositori del mondo antico, diciamo così, chiamiamolo così, la sua biografia è così, è un po' vaga, è un po' imprecisa. C'è una difficoltà in particolare nell'attribuirgli una esatta data di nascita, perché il padre, c'è questo problemino, che il padre aveva esattamente lo stesso nome e in alcune biografie si fa confusione su questo dato. Lo vedremo che questa cosa qua crea anche un po' di problemi poi dopo, insomma, su un po' tutta la biografia. Non si è capito chi è andato dove, chi si è trasferito, chi lavorava per chi. Beh, problemi. Tutte le composizioni di Johannes Cecconia si ritengono essere posteriori al 1390 circa, quindi siamo proprio alla fine del 1300. A un certo punto un Johannes Cecconia, probabilmente il padre, chissà, lavorò ad Avignone intorno al 1350. Come impiegato della moglie del nipote di Papa Clemente VI. Nel 1358 questo stesso, quindi si spera, insomma, si stia parlando di questo, risiedette in Italia lavorando a Padova. Durante il soggiorno in Italia viaggiò molto, appunto sempre il padre, al seguito del cardinale Gil Alvarez de Albornoz e venne in contatto con alcuni compositori dello stile dell'Ars Nova italiana assorbendone la tecnica. E nel 1372 ritornò a Liegi, dove rimase per un periodo a noi sconosciuto. Ve l'ho letto male, si sta parlando del figlio qui, vedete che c'è un certo grado di confusione. Nel 1372 ritornò a Liegi, dove rimase per un periodo a noi sconosciuto. Si sa che mise su famiglia, anche se non si sposò mai. Ok, ordine nella mia scaletta e ordine nelle informazioni che vi sto dando. Questo era Johannes Cecconia, di cui non siamo ancora riusciti a capire se era il padre o il figlio. Pensate come stavamo messi. Un secondo musicista, ecco, sempre dello stesso nome, appare a Liegi nel 1385. Generalmente, insomma, aveva il ruolo di duodenus, generalmente quindi una persona giovane, e quindi se ne è dedotto che probabilmente si trattava del figlio, quindi del compositore di cui stiamo andando a parlare. Gli annali papali riportano che lo stesso Cecconia fu al servizio di Papa Bonifacio IX a Roma nel 1391. Insomma, è un po' un casino, perché uno era al servizio di un papa, uno era al servizio dell'altro, e però si chiamavano alla stessa maniera, erano entrambi compositori, e che casino. Vabbè, la musica del figlio risulta molto evidentemente influenzata da stili diversi, questa cosa l'abbiamo detta prima. Musica del nord Italia, come il suo madrigale bellissimo peraltro, una pantera, è combinata con l'ars nova francese. E invece poi lo stile più complesso dell'ars subtilior, quello di cui stiamo parlando oggi, si ritrova nel suo lavoro Chausson & Fontaine. E lo stile tardo medievale si va trasformando in uno stile melodico più vicino alla musica del Rinascimento. Un esempio di questo tipo di stile è O Rosabella, sempre sua. Egli scrisse sia musica profana, dai francesi virelè ai madrigali alle ballate italiane, che sacra, dai mottetti e a parti di messe, alcune delle quali in scrittura isoritmica. Questa è un po' una particolarità perché invece gli altri compositori fondamentalmente scrivono musica profana. E oltre a tutto ciò scrisse anche dei trattati di teoria musicale, quindi è anche grazie a lui che insomma siamo riusciti a sapere un pochino di più di questa, di questo tipo di musica. Lui o a suo padre, perché chissà, chissà di chi stiamo parlando. In un altro brano ci ascoltiamo di Johannes Ciconia, Mercé o Morte. Beh, mi piaceva il titolo e poi era bellissimo anche il brano e beh, quindi questo è, sentitevelo. Morte, morte, morte, morte, morte. Non sono molti i brani di Ars Subtilior arrivati fino a noi, l'abbiamo detto prima, forse, e molti di questi, direi probabilmente la maggior parte, sono contenuti, come dicevamo, nel Codice di Chantilly. La maggior parte delle composizioni, appunto, di questo codice sono state scritte tra il 1350 e il 1400. In totale, ci sono 112 composizioni, la maggior parte di compositori francesi e tutte polifoniche. Il codice, contiene esempi delle forme maggiormente in voga. All'epoca, l'abbiamo già detto al tempo di Machaut, di Guillaume de Machaut, ballate, rondovi, relè e anche mottetti isoritmici. Alcuni dei mottetti sono scritti in maniera ritmicamente molto complessa, come vedevamo, e con un'intricata notazione musicale. Appunto, un esempio classico che viene ricordato sempre è quello che dicevamo di Beaucordier, Bel Bon Sage, trascritto a forma di cuore. Questo codice di Chantilly ma, insomma, poi, fra l'altro non è l'unico che è stato scritto in questa maniera, ce ne sono moltissimi, poi lo vedremo. Questo è quello che un po' spicca insomma, perché è divertente questo cuore. Tra l'altro c'è una canzone, non mi ricordo se entrambi dello stesso Beaucordier, probabilmente no, l'altra è di un altro ancora. Una ha una forma di cuore un po' più stilizzato e un'altra forma proprio invece di cuore che è un po' più anatomico, come dire. Il codice Chantilly contiene musiche dei seguenti compositori: Johannes Simonis, giusto, ve li cito per darvi un po' come dire, un'infarinata, e se poi vi incuriosisce, magari andate a saperne di più. Johann Sey, Pierre de Molin, Goskalch, chissà come si dice, Solage, molto famoso anche lui, vedremo. Beaucordier, che abbiamo già citato, Grimage, Guillaume de Machaut, lo stesso Guillaume de Machaut, Jean Vaillant, e Franciscus Andrieu, e Cunélier e Saint-Lêche anche lui piuttosto conosciuto. La maggior parte di questi brani contenuti nel Codice di Chantilly, ad ogni modo, sono stati scritti da un certo Solage, quello che citavamo prima, a cui si deve peraltro una delle composizioni più curiose dell'Ars Subtilior, Fumé, Parfumé, è difficilissimo. Ha un testo che, come dire, allude a un certo tipo di ironia su queste discussioni fumose di una certa società dei fumatori, di cui pare che avrebbe fatto parte anche il poeta Deschamps, poi ovviamente. Chissà, presunto nipote di Guillaume de Machaut. Attraverso insomma, tutto ciò, questa composizione strana con questo testo su questa società dei fumatori viene poi scritta attraverso un cromatismo esasperato e un registro delle voci estremamente basso, lo sentirete, che sono entrambi degli espedienti volti a ricreare la sensazione di torpore che Solage pare potesse aver ricavato all'ascolto di questi intellettuali. Quindi fondamentalmente la questione era: ok, c'era questa grande società dei fumatori che discuteva, argomentava, eccetera, io mi addormentavo e no, due palle così. Questa era una delle teorie. L'origine del nome della società non è mai stato chiarito del tutto. Ma nell'ipotesi che faccia riferimento al fumo, beh, anche perché insomma un po' lo dice tipo 20 volte, evidentemente viene da pensare all'hashish o a qualche altra sostanza di provenienza orientale, perché ovviamente il tabacco ancora non era stato importato dall'America. Quindi evidentemente si faceva riferimento a un altro tipo di fumo che non fosse il tabacco. E questo ha portato a pensare è ipotizzare che questa musica di Fumé, Fumé, Parfumé cerchi in qualche modo di esprimere lo stordimento dato dall'uso di certe droghe. Quindi che non fosse tanto uno stordimento relativo alla noia provata all'ascoltare questi discorsi, ma quanto a sensazione, descrivere le sensazioni provate da questa cerchia di fumatori. In questo caso, insomma, si potrebbe tranquillamente parlare di musica psichedelica, proprio tranquillamente. E se non ne siete convinti, ora ve la faccio ascoltare e potete giudicare con i vostri orecchi. È un rondò per quattro voci, fumé, fumé, par, fumé. mente il brocaliffo, non so voi. E ci rimangono due ascolti ancora della nostra puntata, all'interno della puntata di oggi, della Fuga del Gatto. E uno però un po' più lunghetto, quindi insomma adesso ve lo faccio ascoltare senza perdere troppo tempo. Philippoctus de Caserta. E qui anche il nome in realtà poi, bah, chissà, Filippo da Caserta o il latino Philippus, ma anche Philippoctus, ecco, da Caserta. Caserta per fortuna si legge uguale. Beh, qui le date anche qui sono con dei bei punti interrogativi, la nascita più o meno intorno al 1350 e la morte intorno al 1435. Fu al servizio della corte papale di Avignone intorno al 1370, quindi insomma diciamo che nella gara tra i due papi lui aveva scelto. E tant'è che una delle sue, scusate, ballate, Parle bon Gédéon, mamma mia, è dedicata proprio a lui, all'antipapa Clemente VII. Di questo Filippo rimangono sette ballate, un rondò, un virelè e un credo, quindi insomma purtroppo ben poco ci rimane. Ma tra tutte queste una ve la posso far ascoltare che si chiama De ma douleur ne puis trouver confort. Beh sì, siamo nell'ambito del perfettamente dello stil novo. Oddio, oddio, oddio, la mia donna. Ah, quanto mi fa penare, quanto sono schiavo del di lei, amore. Così, un po' così, e dura circa 8 minuti e mezzo, quindi un pochino più lunghetta, insomma. Oh. E ci manca un ultimo ascolto, questo è invece di Paolo da Firenze, si chiama proprio così, cioè un po' modesto, come dire, non so, così Paolo da Firenze, sembra un po' una telefonata così alla sciorraddoppia. No, non è vero, vabbè. Paolo da Firenze, era Venus al termine del soggiorno. Questo è il brano che ci stiamo per ascoltare ed è anche l'ultimo della scaletta di oggi. Paolo Tenorista, anche detto, o anche, per darsi un po' più un tono, Magister Dominus Paulas Abbas de Florentia. Ma insomma, poi stringi stringi, tutti lo conoscevano come Paolo da Firenze. Nato ovviamente dove, indovinate, a Firenze nel 1355 circa, e muore dopo il 20 settembre del 1436, anche qua le date boh, sono un po' incerte. È stato un compositore, ovviamente un teorico della musica italiana del tardo 300, come dicevamo, e anche inizio 400, sì, 400. Operò nel periodo di transizione tra la musica medievale e quella rinascimentale, un po' tutto. Insomma, l'avete sentito in alcuni brani più di altri, insomma, si sente moltissimo questo sorta di ponte tra la monodia e la medievale e poi in seguito anche la polifonia, la prima polifonia perlomeno, e poi un ponte verso già la musica polifonica, ma non solo polifonica, rinascimentale. In realtà Paolo da Firenze è molto conosciuto per, cioè diciamo che viene ascritto a Lars Nova, l'hanno preso nella loro squadra, ma in realtà come abbiamo visto insomma le cose sono molto più intricate, molto più sfumate, assolutamente non è da prenderla così insomma rigidamente. Intorno al 1410 a Firenze fece da supervisore alla compilazione di un altro codice molto importante, che è il codice Squarcialupi, che poi di fatto è la fonte più importante delle musiche italiane dell'intero XIV secolo. Direi che insomma, insieme al codice Chantilly sono tra i più importanti. Arrivati almeno fino a noi. I madrigali di Paolo da Firenze combinano lo stile italiano a quello francese, quindi anche qua si diceva le due scuole si influenzano, ecco, Paolo da Firenze ce ne offre un perfetto esempio. Quindi la scuola dell'Ars Subtilior di Avignone in particolare, insomma comunque la scuola francese viene influenzata e a sua volta influenza moltissimo la musica invece francese. Qui Paolo da Firenze un po' in qualche maniera prova anche lui a scrivere con questa intricata scrittura ritmica che abbiamo visto prima, e molte composizioni sue sono a due voci, però questo invece è una scelta un po' più conservatrice, diciamo. Quindi, insomma, non piglia un po' da qui, un po' da là, un po' da uno stile, un po' dall'altro. Le ballate sono più moderne rispetto a madrigali, e molte invece sono a tre voci, quindi qui si prova un po', si va un po' più, si azzarda verso la modernità. Sono liriche e melodiche, ma hanno una struttura ritmica complessa che richiama appunto i canoni dell'Ars Subtilior, quindi insomma. Si sente poi, lo sentirete, l'influenza di Landini, di Francesco Landini, che è difficile direi da evitare a Firenze per un compositore che viveva in quella città nel tardo 300. E questa si ritrova sia nei madrigali che nelle ballate. Per ora è tutto, vi lascio con questo brano bellissimo, Era Venus al termine del soggiorno, un po' diverso lo sentirete, beh, perché quello che abbiamo sentito fino adesso di fatto erano un po' gli esempi più classici, o alcuni degli esempi più classici di Ars Subtilior, qui siamo un po' dopo e un po' in un'altra scuola che viene però pesantemente influenzata dall'Ars Subtilior, quindi diciamo che Questo brano ve lo lascio in chiusura proprio per ascoltare quello che Lars Subtilior ha lasciato germinare, ecco, nella musica successiva. Con questo vi lascio, ma non prima di ricordarvi di dare uno sguardo alla punta.org, sito degli appuntamenti sotterranei fiorentini, sito che si sta popolando in queste settimane di moltissimi appuntamenti nei vari spazi, nelle varie piazze. Devo dire che, insomma, questo mese è bello bello denso, tra l'altro no, non c'è assolutamente tutto quello che c'è in giro, ma un bel po' sì, e dalle assemblee, incontri di quartiere, workshop di tutti i tipi, video, film, milonghe, di tutto. In particolare però vi volevo raccontare velocissimamente qualcosa che è un pochino diverso, che insomma è un po' fuori dall'ordinario, ovvero un festival del cinema documentario resistente che avverrà a Castello, al Cinema di Castello e al CSA Next Emerson il prossimo fine settimana, in particolare il venerdì 18, quindi venerdì prossimo, al Cinema di Castello alle 21:30 e poi invece sabato 19 e domenica 20 al CSA Next Emerson con due sale che vedranno alternarsi moltissimi film, con la presenza molto spesso degli autori o nel reale o in collegamento video o audio e insomma tantissime cose, film musicati. Non ho assolutamente il tempo di poterveli leggere tutti, ma vi do come appunto dritta quella di andare a guardare sulla punta.org dove c'è tutto compreso il riferimento a questo festival, oppure anche direttamente sul sito del Next Emerson, ovvero www.csaexemerson.it. Con questo direi che ho detto tutto e vi lascio all'ultimo brano che vi ho appunto preannunciato di Paolo da Firenze. E poi alla programmazione del Wombat con la bobina, le repliche e tutto quanto già sapete. A domenica prossima. Ciao ciao!